dal 6 al 29 aprile, in occasione del Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, arriveranno nelle sale del Cinema Orione a Bologna alcuni dei migliori film dell'ultima stagione cinematografica spagnola e latinoamericana. Sono qui per parlare con Iris Martín Peralta, la direttrice artistica del Festival. Benvenuta. Ciao, grazie. Innanzitutto ti va di raccontarci un po' come è nata l'idea del Festival e qual è il suo intento? Sì, sì, il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano è un progetto nazionale che nasce ormai già 16 anni fa, che ha la finalità di promuovere, divulgare le diversità delle espressioni culturali della Spagna e l'America Latina attraverso il cinema, cinema di qualità. E, diciamo che lavoriamo in diverse città in Italia e è un grande piacere ritornare a Bologna, che è una città molto cara a noi, dove abbiamo anche lavorato in diverse realtà, in Cineteca, al Cinema Lumière, con anche, diciamo, Urge di Alessandro Bergonzoni. Abbiamo lavorato insomma con diverse realtà e questa volta al Cinema Orione presentiamo appunto questo programma di 6 film recenti che rappresentano un po' diverse linee, diverse tendenze dentro del cinema spagnolo contemporaneo. È possibile già anticipare alcuni tra i titoli che arriveranno al cinema, tra quelli proposti? Sì, abbiamo, diciamo, il film Intemperie, che è un film che poi è un'anteprima, perché è un film che poi insomma si vedrà successivamente. Poi diciamo La Volontaria, il film di Nelly Reguera, che proprio il giorno della sua presentazione lì all'Orione Bologna è proprio in uscita nazionale, quindi sarà anche l'occasione di vederlo in anteprima. E per gli altri film poi speriamo, a volte i festival, sai, sono l'occasione di vedere, di avere accesso a quei film che non si trovano nelle piattaforme, che non si trovano nella televisione o che non si trovano insomma nella normale circolazione cinematografica distributiva. E benissimo, e quindi quella di Bologna è la prima tappa di questo festival, ma nelle serate ci saranno anche alcuni ospiti presenti? Sì, le serate abbiamo sempre, quando creiamo un programma, che questo in realtà è una puntata, quella di Bologna, che viene anche a aprire la nuova stagione del cinema, del Festival del Cinema Spagnolo. E noi correggiamo sempre il film, la proiezione del film ovviamente, a incontri, a presentazioni, no? Nel caso ad esempio del film Intemperie che dicevamo, abbiamo avuto l'occasione di parlare, sarà presentato prima del film, con l'autore del romanzo Intemperie, di cui Benito Zambrano ha tratto la sceneggiatura e che ha vinto pure un premio Goya, sarebbe appunto gli Oscar spagnoli a questo proposito, no? Jesús Carrasco si chiama lo scrittore. Poi avremo, con la collaborazione di Spagna Cultura, che sono insomma il nostro braccio anche a Bologna, le presentazioni dei film da parte di esperti, diciamo, nella tematica di cui tratta il film di riferimento. E poi abbiamo appunto la partecipazione della regista Nelly Reguera, come dicevo, della Volontaria, che al termine del film incontrerà il pubblico, che si reca al Cinema Orione insomma per sostenere un colloquio, un Q&A. E quindi saranno presentati molti film, ma quali sono alcune delle tematiche principali, centrali? È la parte che noi ci teniamo a sottolineare della programmazione del festival è sempre la diversità, perché pensiamo che appunto una cinematografia non ha tutti i film che vanno nella stessa direzione, no? Quindi qua abbiamo ad esempio da un thriller come 70 Bin Ladens, no? Che è quel quasi sottogenere delle rapine in banca. Poi abbiamo film che trattano film storici, come appunto il caso di Intemperie, che ci porta subito dopo la postguerra della guerra civile spagnola. E abbiamo film di taglio sociale, La Volontaria, un film girato in un campo profughi in Grecia, e purtroppo un tema di stringente attualità, quindi diciamo ci sono alcuni di questi film che toccano temi anche molto molto molto recenti, e Libertà ad esempio tratta il tema della intergenerazionalità. Josefina è un film che ci trasporta, diciamo, in modo molto intimista dentro i carceri con proprio le persone che ci lavorano, e ama un rapporto, parla di un rapporto madre-figlia, con insomma, diciamo che il filo rosso è che sono film fatti, diciamo, di libertà espressiva, no? Il cinema spagnolo contemporaneo dimostra una grande vitalità, e pensiamo che questi 6 film, ognuno nel suo genere, ne è una prova. Un'ultima domanda un po' più pratica: i film durante le serate verranno proiettati in lingua originale? Sì, assolutamente. Noi, diciamo, il linguaggio di un film include anche ovviamente i dialoghi, a nostro punto di vista, e questo che dicevo all'inizio, no? Questa diversità delle espressioni culturali passa anche per sentire la lingua con cui sono stati girati. Noi sempre i film sono in versione originale con i sottotitoli in italiano, troverete pure un po' di catalano, troverete l'andaluso, troverete un po' di euskera, troverete un po' di greco, troverete ovviamente lo spagnolo per quelli pure che lo vogliono anche migliorare o imparare attraverso il cinema, quindi sì, il film l'ho visto in versione originale con i sottotitoli.